Ciao carissimo. Ah, ma certo, ma poi la conosco. Tutte certo le volte ci conosciamo e poi non ci conosciamo, com'è? Sì, no, ci conosciamo perché un giorno sono venuto a salutarti dalle giraffe. Lo so, però in radio non riusciamo mai a incontrarci. In radio non ci conosciamo. Non ce n'è. Ci conosciamo ma non in radio. Ovviamente. E sai cosa viene qui a raccontarci a un anno di distanza dalla sua ultima visita? Stefano? Pronto? Ah, sì, dici? È già passato un anno. Sì, è già passato un anno. Mi ero distratto perché ti volevo far sentire l'ambiente. Fabio Mondadori aveva detto che veniva. Hai capito? Che non è venuto Fabio Mondadori. Va bene, comunque Valeria è qui perché un anno fa è venuta a raccontarci di un'azione rivoluzionaria che stava per compiere. Adesso che l'ha compiuta, un anno di distanza, le ho chiesto di venirci a raccontare al Coxo che cosa è successo di conseguenza, perché lei è passata dall'analogico al digitale. E all'iperspazio. Esatto. Come la vedi? La vede che c'è troppa pizza in giro. Stefano, mi sa che il presente tuo ti chiama di più che il presente nostro. Sì, perché altro c'è un casino in questo posto che non sento niente, cioè non sento né quello che dicono loro né quello che dite voi e quello che succede in digitale. Per me sei in una dimensione spazio-temporale parallela, però... Ma infatti stavo pensando di formattare, non il telefono ma me stesso. Beh, potrebbe non essere male, poi mi spieghi come si fa che se ne sento il bisogno anch'io di questi ultimi tempi. Formattiamoci. Una volta si faceva controllo al cance, però non... Però dove sono i tasti? Ancora non li ho trovati. Esatto. Bisogna trovare i tasti, il problema è quello. Va bene. Allora, sai cosa ti dico? Che... by the minute hand, tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong, a ding dong. I dream that I am sitting. The devil's company. He gave a sign, a promise. C-5-4-5 for me. Sarà la 170esima o la 171esima? Io sono rimasta col dubbio. Ma forse lui è in un altro spazio, in un altro tempo, quindi comunque. Sai cosa? Potrebbe essere anche la 1000esima puntata, non si sa. Ma sai cosa? Io vado con la 171 perché sono abbastanza sicura, perciò esordisco col dire e benvenuti al 171esimo Coxo che vede come super mega galattica ospitessa niente tipo po' di meno che Valeria Sacenti delle grazie, giraffe. Grazie. E forse aspetta che ci metto anche questo se riesco a beccarlo al volo, però ormai non ci sto, ho perso il tempo radiofonico. Beh. È che c'avevo questo. Grazie, ti faccio un inchino virtuale, virtualissimo. Vabbè, scusami. Certo, ovvio, noi siamo principesse. No, va bene Valeria, comunque quello che anticipavo a Stefano, che era in fase pizza, perciò si capisce che forse anche vinello, lambrusco e altro, ma va bene, è venerdì, ovvio. Oh, sì, poi in realtà che vada alle pizzate anziché a venire al coxo, questo mi sa che vabbè, dovremmo... ma è il nostro destino, noi siamo così, parliamo dell'online, lui è online, io sono online, non ci vedremo mai, ci vedremo... E infatti, perché l'anno scorso è venuta qui raccontandoci di questa grande trasformazione che stava avvenendo, ovvero il tuo negozio in Via delle Moline, storico, che è stato lì per 20 anni, mi sembra. Sì, 20. È che tu non li dimostri, perciò mi fa strano dire che sono 20. No, io ne ho 13, però ne ho 50, diviso 2 fa 4, quindi è uguale 3. Va bene, comunque... È stato con molta sofferenza da parte di chi ti veniva a trovare spesso, chiuso, e hai spostato la tua griff online, riportando tutte le tue attività, dalla creazione alla connessione tra più persone al catalizzatore di artisti in città, nel tuo atelier che è in Via Lame numero? Via delle Lame 26, cioè... Diciamo la mia rivoluzione interna e anche esteriore, ovviamente, che voi vedete solo l'esteriorità perché ovviamente il negozio chiuso è un messaggio molto forte, però comunque ho fatto questa scelta egoisticamente parlando per il mio tempo libero, però è stata molto sofferta e voluta fortemente perché comunque volevo cambiare, perché io seguo i cambiamenti, vengo dall'analogico, sono passata al digitale. Ed infatti le giraffe che chiude è proprio anche un segno dei tempi che cambiano. Ovvio. Ed effettivamente quella strada forse è anche diventata diversa dalla tua mancanza. Poi di fianco ha chiuso anche la biblioteca storica che era lì di fianco, certo, da anni. Ha chiuso un pelino prima di me, però comunque per me è stato anche un segnale di conferma della decisione che dovevo prendere, perché comunque il Greco è la biblioteca storica, cioè la libreria storica. Infatti, io libreria. La chiamo biblioteca perché comunque la gente la trattava come una biblioteca, perché a tutti gli effetti tu potevi entrare a qualsiasi ora della notte e del giorno, chiedere qualsiasi argomento e sia lui che lei ti trovavano la brochure, il libro su qualsiasi cosa. Cultura immensa, e ovviamente loro sono stati schiacciati dai grandi marchi. Renditi conto che quando io ero pischellissima, primi anni studentessa a Bologna, pendolare, sono andata lì e cercavo un libro di Cartesio. E lei mi ha offerto, cioè nel senso, tramite lei io ho scoperto che Descartes e Cartesio erano la stessa persona. Io tutte le volte che avevo le mie idee assurde andavo di là, dalla signora Marta, che era la moglie, perché con il signore... il signor Greco, io avevo sempre una sorta di reverenza, quindi ci salutavamo al bar con molta discrezione, ma mi ha salutato dopo circa 15 anni. La moglie invece, la signora Marta, mi adorava perché io arrivavo con i miei capelli verde e blu, per lei ero una marziana in Via delle Moline, però andavo da lei discutendo di argomenti pseudo intelligenti, quindi non capiva se ero scema o ero solo pazza. E comunque quindi, era una vicina di casa. No, per me è stato un esempio, e quando hanno chiuso ho capito che devo chiudere anch'io. Comunque poco male, i tempi stanno, certo, cambiando, Bologna è in continua evoluzione, sia meglio sia peggio, chi lo sa. Fatto sta che il grande pregio è che le giraffe in realtà si è solo un po' mimetizzata, se vogliamo, perché c'è ancora tutte le cose che avevi cominciato a fare tua sede delle Moline, le stai continuando a fare adesso. Sono e quindi camouflage. È proprio di questo che io ti voglio chiedere. Cosa è successo in questo anno di digitalizzazione? Beh, allora, partiamo... Rido perché rido di me stessa, perché copia e incolla l'ho imparato dopo Photoshop, quindi sono un autodidatta in tutto, però dato che nel 2002 mi sono resa conto che se non passavo dall'analogico al digitale sarei rimasta indietro, quindi a me piace non il futuro, per me bisogna vivere nel presente, vivo nel presente e io mi adeguo a alla tecnologia, cioè deve risolvere i problemi, non darci. Sì, però nel presente c'è anche qualche seme del futuro, no? No, il futuro non esiste, esiste solo il presente. Aspetta che ti rimetto, no, l'applauso, no, ti metto questa. Il futuro non esiste. Allora, Rettifico, no, non è una vera rettifica, però spiego. Allora, io vivo nel presente perché comunque io sento, voglio sentire, e quando non sentirò più sarò morta, ma sarò passata in un altro tempo, in un altro spazio. Dimensione coxica. Partiamo dal fatto che io non credo in nessun tipo di religione, quindi non sono mistica per niente. Io credo nella materia, quindi vado avanti. E credo fortemente nell'arte. Allora, la mia regola di base è sempre stata: le persone ti possono tradire, ma l'arte non ti tradirà mai. Però ricordati sempre che l'arte è un'entità astratta che cammina di fianco a te. Se tu sei stato gratificato di qualcosa in più, dicesi artista, quella persona che ha quella sensibilità affinata, ma non perché gli altri siano insensibili, sono anestetizzati, punto. Quindi chi interagisce con l'arte interagisce con il presente, gli altri rimangono indietro o non hanno capito niente. E mi hai dato un ottimo gancio, perché io voglio capire come tu in quest'anno, nella nuova configurazione delle giraffe, stai interagendo con l'arte e la creatività del tuo presente. Allora, prima di tutto mi dovevo riposare un po' perché ero stanca, perché dopo 22 anni di Via delle Moline e Piazza Verdi vi posso assicurare che ho dato. Però il fatto che è stata sofferta la chiusura per lo spazio fisico, però era un'esigenza mia personale, poi comunque bisogna anche capire che quando un'era è finita, l'era del Link Vecchio è finita, l'era dei Rave è finita, l'era dei Pancabest è finita, ma tutto ricomincia con nuove versioni. Però non bisogna rinnegare mai se stessi, e per non rinnegare me stessa ho fatto una scelta. Ho fatto una scelta di privatizzare il mio progetto, ma non per renderlo elitario, ma come poi qualcuno privatizzare crede. Non è neanche la parola giusta, se mi permette, certo. Perché io ti sto chiedendo le cose, ma io un pochino le cose le so già. Certo, io sto cercando di regalare lo spazio in cui vivo ai giovani artisti, o giovani o non giovani, giovane è quello che tu senti, non è l'età anagrafica della persona stessa. Io non sono giovane, però ne ho 13 di anni, cosa vuol dire? Si parla di freschezza di linguaggio. E allora, paragonando l'analogico al digitale, ok? Ho fatto questa scelta perché ho privatizzato la cosa, nel senso che chiunque una volta a settimana può venire lì e comprare il mio prodotto, però anche propormi dei progetti. E allora riprendo un attimo le fila del discorso, perché in Via delle Lame numero 26, suonando il campanello Sacenti, ovviamente, e qualcuno ha una vocina dirà chi è? Sono io. E attraverso questa voce, questo andito di scale, cancelli, porte automatiche, si fantasmagoriche, è bellissimo. Confesso. Io ci vorrei già girare un video di una tua sfilata con la nuova collezione che fra l'altro sta per arrivare. Certo. E avrà accesso alla tua casa atelier, che è veramente una casa atelier, perché io ad esempio sono passata a trovarti 2-3 volte e sono stata solo nella parte pubblica, proprio strutturata così, come ambito pubblico il tuo laboratorio di ricerca, certo. E poi la tua vita privata che giustamente resta celata. No, non è che la sto celando, è che alcune volte vi apro una certa zona dello spazio, poi secondo delle stagioni o insomma, dato che ho anche una bellissima terrazza, uno spazio sopra, pian piano, se è caldo apro fuori, perché a me piace fare DJ set all'aperto. Esatto, se è freddo set, si capito. Sta davanti al camino, o se no il mio spazio privato lo vedono pochi eletti a seconda delle di certe situazioni. Vorrei poter far vedere il volto che ti è venuto fuori quando... Comunque, ritornando appunto a questa questione, abbiamo parlato di DJ set, abbiamo parlato di atelier, di spazio espositivo. Effettivamente il tuo spazio espositivo è un salotto, dove io quando sono venuta sto cercando di creare un salotto nel mio privato. Ovviamente devo tenere qualcosa di privato, se no non è più casa mia. Io ci lavoro, io ho la fortuna, il privilegio e la sfiga di essere il mio lavoro. Allora facciamo così, siccome su questo non ci piove, ma perché sia chiaro a tutte le giraffomani che ci stanno e i giraffomani che ci stanno ascoltando, la giraffa c'è, non è più in Via delle Moline, ma si manifesta con un appuntamento fisso ogni venerdì in Via delle Lame 26. Certo, lo spazio è aperto a tutti, non siate timidi. Come venivate in negozio a farmi vedere i book, io cercavo di consigliarvi, e se per me era un privilegio, avere una rubrica, conoscendo tante persone, avendo un background, di potervi aiutare in qualsiasi modo. Qualsiasi persona sul mio Facebook, in chat privata, può scrivermi il suo progetto, può scrivermi le sue idee. Non è cambiato niente, rendiamolo virtuale. Esiste la tecnologia, cavolo, usiamola. E anche se non si è particolarmente artisti, non si ha book, cose del genere, il venerdì si può salire da te, certo, venire a vedere la collezione nuova, poi ci sono, c'è anche l'angolino dei saldi che a me piace tanto, certo, e soprattutto c'è un bel divanone dove si fanno anche di quelle chiacchiere che a me mi hanno anche e rinnovato anche la vita. C'è anche il bar col caffè, le birrettine, il vinello, insomma, non cucino, però se qualcuno vuole cucinare una spaghettata si fa, non preoccupatevi. E quindi diciamo è anche un le giraffe plus, perché le giraffe la cucina non c'era. Diciamo che non sono una grande cuoca, io lavo molto bene i piatti, però metto a disposizione la cucina, perché non vedo perché avvelenare i miei ospiti, non credo sia il caso. E poi, per rimanere nelle tradizioni, anche nonostante questa transmutazione giraffica, effettivamente ebook, i contatti servono, perché tu hai in programma di ripartire anche, certo, con delle attività più, come le chiamiamo, più performative, artistiche. Certo. Mi ricordo che alle giraffe facevi anche sovente delle installazioni di artisti che invitavi, forse quello io no, però. Ho iniziato nel 98, venendo dal background del Link vecchio, facendo collettivi d'artisti ed esponendo. Diciamo che sono stato il primo negozio, quando in Molino non c'era ancora niente, a esporre, fare DJ set, fare del casino fino alle 3 di notte. Poi dopo ovviamente i tempi si sono inaspriti, poi nel 2010 hanno iniziato a stringere i rubinetti, troppe multe, troppe cose, ci hanno ghettizzati. Però il punto è un altro, il punto è che comunque vorrei trasmettere questo, sono qua per questo motivo, che io non ho privatizzato lo spazio, il mio privato o il mio progetto per renderlo elitario. Io sarò sempre dalla parte dell'underground, vengo da un background punk. Sì, li ha attraversati tutti quelli che nell'83 sono stati a Bologna. Nell'83 lavoravo per Elio Fiorucci e gestivo il negozio più punk di Bologna ai tempi di Kate Terrin, dopodiché sono passata al Link, sono passata altre situazioni. Io non voglio rettificare il mio DNA, lo voglio solo cavalcare non le ere, però comunque senza adeguarmi uso la tecnologia, non sono scema, esiste per mi risolve un problema, perché mi devo mettere il problema. No, certo, infatti. Però hai fatto bene a precisarlo. La linea è molto sottile. No, hai fatto bene a precisarlo, perché ti dirò che anch'io, che amavo passarti a trovare lì in negozio, nel momento in cui ho sentito di questa questo spostamento in atelier, la parola atelier in effetti mette un pochino tipo paura in chi non ha, come me, delle risorse così auree qui. In realtà poi, rompendo il ghiaccio, sono ma timore concettuale, bisogna andare oltre le cose. Allora infatti, tu vai da H&M, ti senti, vai da Hermès, ti senti al sicuro, oppure vai dentro una galleria d'arte, già parli sottovoce, non sei mica in chiesa. Cioè, galleria d'arte in tutto il mondo si sposano, scopano, bevono, si drogano e si divertono. E in effetti, solo in Italia entri in chiesa. E infatti, cioè, anche in tutto il mondo, si parlava prima, ci sono un sacco di progetti sociali, artistici e comunque aperti alla comunità, che si stanno spostando in casa. Io l'ultima volta che sono stata a Brooklyn, poi tempo fa, a New York, avendo vissuto negli Stati Uniti, però non ero mai stata a New York. New York mi ha paraflesciato il fatto che a Brooklyn tu suonavi i campanelli, entravi in casa della gente, ti facevano vedere l'esposizione d'arte, ti facevano il caffè, ti facevi la tua canna, andavi a casa contento, ma eri andata a casa di uno. Ed è un trip che mi è sempre rimasto, e io ho capito che attraverso la tecnologia posso fare la stessa cosa. Dai prossimi eventi farò le dirette, senza ovviamente, io ovviamente non posto niente sulla bacheca di nessuno. Se uno si vuole collegare, la mia bacheca è pubblica, ci puoi scrivere quello che vuoi, io non tolgo niente, neanche le, ovviamente spero che uno sia educato nel suo manifestarsi, però comunque deve essere pubblico, deve essere per voi. Il mio progetto di 20 anni non è che l'ho chiuso per buttarlo via, il progetto continua, ma esprimetevi, venite, facciamo dei collettivi d'artisti, collaborerò con dei musicisti col comunale insieme a degli altri musicisti, si sono incontrate delle cantanti pop insieme a dei musicisti del comunale, si sono incontrati dei pittori con degli scrittori, creare un salotto tutto, dove fai shopping ma incontri solo persone interessanti e belle. È tutto in una dimensione veramente molto, molto accogliente. Io deve ero essere venuta umana lì, non accogliente, umana. Ma hai ragione, umana. Io ero non venuta umanoide lì con una mia amica, fra l'altro stavamo passando un periodo entrambe un po' così, e ci siamo messi a chiacchierare anche con te intanto che provavamo i vestiti, poi è arrivata quest'altra ragazza, altra chiacchiera, e alla fine se avessi avuto il tempo sarei rimasta anche di più. Certo. E mi ha svoltato veramente la giornata. Io possiedo un bar, cioè, comunque no, aspetta, vino non manca mai, perché l'avrai capito che io mi sono innamorata delle giraffe, quindi sono tutta persa, io mi sono persa la scaletta, adesso noi dobbiamo andare per forza con questo, la rubrica di Zino, come il nome di un cinese, come il coraggio. Mi sono sempre chiesto perché alcuni di noi sono disposti a fare l'esatto contrario rispetto a ciò che l'istinto di sopravvivenza suggerirebbe, come ad esempio lanciarsi in caduta libera da 40.000 metri di altezza, affrontare un serpente velenoso a mani nude, scalare una parete verticale o parlare con pasquini. Certo, queste sono azioni veramente rischiose. Nella mia vita non sono mai arrivato a tanto, ma qualcosa di veramente ardito penso di averlo fatto anch'io. Sono andato in una spiaggia ai nudisti in pieno inverno, ho mangiato salame a una convention vegana, ho indossato una tuta alare per scendere dal letto, ho mangiato formiche vive, mi sono svegliato prima del sorgere del sole e ho affrontato un esercito di bollicine gassose dentro dozzinali bottiglie di birra, ho parlato in inglese per più di 2 minuti con un inglese vero, ho evacuato nel bagno di un Intercity e ho annusato i calzini del cesto della biancheria sporca. Poi l'altro giorno ho incontrato uno che diceva di aver bevuto per 2 anni l'acqua del water. Al mondo trovi sempre qualcuno che sta peggio di te. Il problema è quando diventa difficile trovarlo. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Stai ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale, Coxo Spaziale. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. E rieccoci tornati in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko per la 171esima forse puntata di Cox spaziale con la super mega galattica ospite Valeria Sacenti delle giraffe miticissime. E però adesso c'è un'altra cosa miticissima della quale già ti ricordi dell'anno scorso, ovvero le nostre menzioni. L'angolo della menzione. E quindi, parti tu o parto io? Con sabato 10 febbraio. No, vai tu. Vai Vado tu. Io? Certo. Allora, facciamo attenzione che c'è un sacco di parole straniere, io poi mi impappero, mi torna tutta Fai la dislessia. Fai tu, che già io non vedo niente. Sabato 10, ore 21, Undying Love, ad Atelier C. Replica del collettivo internazionale LFKS, piccola la S, la Fabrics, ospite di Ateliersi nell'ambito del percorso di approfondimento del linguaggio politico che caratterizza la programmazione del SI 2016-2017 e che si chiama Fuori la lingua. La performance, trascrizione esatta per pianoforte e voce tenorile del discorso del leader delle Black Panther, Stokely Carmichael, fortuna che poi abbiamo la telefonica così chiediamo come si pronuncia, esatto. E questo leader pronunciò il 17 febbraio del 1968, è estratta dall'opera musicale Villanova, creata sulla storia dei Black Panther Party, appunto. Introduce l'azione scenica l'intervento di Ilenia Kaleo e con la lingua del collettivo LFKS, il linguaggio del Black Panther Party, alle ore 19, e questa prima parte è gratuita. E noi abbiamo in linea, sempre se c'è ancora, proprio Ilenia Kaleo. Ci sei ancora? Ci sono. Benvenuta al Coxo, grazie per essere con noi e scusami per la mia incapacità. Ciao, ti presento Valeria, che ciao, con Ilenia, noi. Piacerissimo. Ciao. Ma quindi Stokely Carmichael potrebbe essere Carmichael, direi. Perché, è no, perché in realtà gli LFKS sono francesi, quindi magari sì, ci loro sta. Sì, loro sì. Ma le pantere nere. Eh beh, sì. Invece, è vero, è vero. Africano americane. Questo Questo lo sapevo, ammetto di saperlo, però sai. E quindi tu, Ilenia... Domani introduco con la lingua, sì. Sì, con la lingua del collettivo. Ma senti un attimo, tu fra l'altro sei lì ad Atelier Sì, che hai visto anche lo spettacolo? Sì. L'ho visto un'oretta fa, quindi invito tutte e tutti a venire perché è un'occasione preziosissima, perché Le Fabrique, non so se è addirittura la prima volta che viene in Italia, potrei dire una cosa sbagliata. Con questo lavoro sì. Rarissimamente, mm-hmm. Quindi è un'occasione averlo in città, è un pezzo di un'opera più ampia, fatta di tanti formati, esplosa, qui se ne vede solo un pezzetto, ma davvero potente, quindi... Che poi... Questa cosa dell'esplosione è un po' anche la cifra della loro ricerca. Esatto, sì, io appunto non ho visto moltissimo, devo dire. Perché purtroppo qua in Italia fanno fatica. Però volevo chiederti... Non arriva molto, quindi occasione in più per esserci domani perché è un'opportunità. E quindi volevo chiederti invece come lo introdurrai, se c'è qualche anticipazione. Allora, sì, un po'... Questo che arriva a Tagliersi a Bologna è un pezzettino, come dicevate, di un'opera più ampia, tutta di un ciclo proprio di lavoro fatto anche di formati diversi. Loro lavorano con linguaggi e con formati diversi. Io ho visto anche il lavoro che hanno presentato ieri sera al Chinodromo, che è un lavoro visuale, diciamo, filmico, però costruito in 2 anni di ricerca dentro una balliera alle Havre, filmico che si vede online, quindi un po' la loro cifra è lavorare, come dicevate, su dei formati, dei linguaggi, dei linguaggi diversi. Cioè, quindi qua vedremo un pezzettino di una cosa molto più ampia di questo ciclo dedicato alle Pantere Nere. Io in particolare la cosa su cui ho lavorato, su cui intervengo, faccio un discorsetto domani, è un po' appunto una riflessione, discorso, condivisione di pensiero riguardo alle pratiche politiche ma anche linguistiche delle Pantere Nere. Ok, perfetto. E quindi non lo so in che modo, cioè vorrei sapere, dai, mi sa che mi tocca venire più che altro me lo dovrò far registrare perché purtroppo domani sono fuori città, è un impegno imperdibile, però me lo racconti tu magari quando, fra l'altro io ti ho chiesto anche di introdurre un pochino loro, che però già solo per il lavoro di ieri sera servirebbero un ciclo di Coxo, perché è talmente articolato e potente che in effetti ti ho chiesto in 5 minuti di fare un super riassunto, e però mi sembra che ce la siamo cavata. Che dici, Valeria, tu? Che io direi, dovrei vedere, però comunque da quel poco che hai detto sicuramente è una cosa interessante. Eh sì, ci lascia tutti un pochino anche riflessivi. Ma senti, quindi non ti vuoi sbottonare oltre sui punti d'analisi del tuo intervento di domani? Ah, no, sì, vi dico, a voglia. Perché non sapevo se non volessi approfondire. No. Allora, un po', diciamo, io non sono una storica, ecco, quindi non farò una ricostruzione storiografica. Tu sei una performer, una filosofa, dico bene? Tante cose o nessuna di queste, o tutte. Sì, professionalmente lavoro nel teatro contemporaneo di ricerca, quindi ci sono un'attrice, ma sto facendo anche un percorso di ricerca indipendente tra l'indipendente e l'università su corpo, performatività, questioni femministe e post-femministe, e poi faccio politica, diciamo, attiva dal basso, quindi queste sono le caratteristiche per cui, attraverso cui anche, ecco, questo per dire come sono entrata in questa cosa, cioè mi sono, appunto, non sono una storica, quindi non farò una ricostruzione storica delle vicende del Black Panther Party, ma sono ripassata un po' in mezzo a quelle vicende, e mi sembra che alcuni nodi sia politici che, e questa è la questione interessante, no? Anche di linguaggi utilizzati dalle Pantere Nere parlino adesso, no? Appunto, un po' di partenza all'immaginario che hanno creato, che è qualcosa che... Beh, sono attualissimi. Tutti, esatto, soprattutto perché c'è un presidente americano di un certo tipo, e si inizia a parlare nella mainstream di suprematismo bianco, ecco questo termine che forse qualche mese fa nessuno avrebbe utilizzato, l'idea di supremazia bianca, di suprematismo bianco invece è ridiventato improvvisamente attuale. Oppure basta pensare, no, cosa è successo nella banlieue parisina 5 giorni fa, poliziotti che stuprano un giovane di colore in arresto. Quindi in realtà no, le questioni sono straordinariamente attuali. Quello che ci arriva dal percorso, dalle pratiche delle Pantere Nere, intanto è una ricostruzione degli Stati Uniti che per me è stata anche abbastanza sorprendente, no? Perché invece era estremamente viva da un punto di vista politico, piena di collettivi, di organizzazioni politiche razziali, quindi questi anni, questo passaggio tra gli anni 60 e gli anni 70 negli Stati Uniti, non so, per me è stato un po', appunto, al di là delle cose che conosciamo, invece riguardarle con attenzione mi ha dato veramente l'idea, no, di una vitalità politica molto forte che adesso è difficile immaginare, e anche di una radicalità. E poi nel caso delle Pantere Nere, quello che è interessante è che i linguaggi che hanno utilizzato, sia da quelli più performativi, no? Questo è un pezzetto del discorso che faremo domani, cioè una costruzione del corpo, questo immaginario, dall'uniforme, il basco, la giacca, un modo di camminare, qualcosa che arrivava dalla cultura di strada, è la figura del malavitoso, del gangster di quartiere, che invece diventa, come dire, la figura di un, viene politicizzata, diventa la figura di un rivoluzionario metropolitano, no? E questo è molto bello. E poi anche un utilizzo consapevole di tutti i linguaggi, dalla grafica al cinema, alla musica, con delle conseguenze anche sulla storia musicale. Beh, importantissime, dal rap all'hip hop. Ci stai aprendo un mondo, soprattutto nella mia testa, che vorrei approfondire ulteriormente, e magari una delle prossime volte ma tu sei qui a Bologna? Allora, no, vivo a Roma, però. Allora, una delle prossime volte che passi da queste parti, magari proviamo a sentirci prima, che organizziamo un approfondimento. Sì, volentieri, volentierissimo. Così anche mi dalla radio. Così anche mi passi le pronunce di certi nomi cardinali per la storia contemporanea. Quello non sarà di grande aiuto, è solo. Grazie mille per essere stata con noi, e mannaggia, no, domani non ci posso venire domani a salutarti. Domani sera alle 7 appunto facciamo questa presentazione, alle 9 ci sarà lo spettacolo, davvero. Ma spargete la voce, venite, un'occasione. Dimmi una cosa, alle 19 è in teatro o su alla caffetteria? Sono in caffetteria, invece okay. Alle 9 ci sarà il lavoro che abbiamo visto stasera, davvero, non so come dire, tra il poetico e il provocatorio, veramente potente, quindi appunto mettilo online. Il passaggio di codici, no? Un discorso che è un discorso politico del potere nero, fatto nel 1968-69 se non sbaglio, che diventa un'opera cantata dentro il codice lirico, che è proprio la cifra della borghesia ottocentesca, e adesso anche, esatto, qui ha detto un altro strafalcione che le Fabrique lavori proprio invece su questo tipo di occupazione di campi limitrofi che stai dicendo, no? Cioè passare da un formato all'altro, da un linguaggio all'altro, e parlare delle black, e questo lavoro era destinato al pubblico dell'opera, no? Ben nasce, quindi immaginiamoci gli impellicciati della Scala, però invece di Rossini è Stokely Carmichael che parla contro il suprematismo bianco e per il potere nero. Grazie mille, piacerissimo. Grazie a voi. Stai buona bene? Serata. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao ragazze, ciao. Wow. Tanta roba. Wow. Sì. Un bel momento di vuoto coxico. No, ci sta. Nel senso che nel senso che noi però dobbiamo continuare con l'angolo della menzione. Vai. I tempi radiofonici adesso toccherebbe a te. Devo aspettare. Mi si è spento il computer. Ah, non trovare scuse. No, davvero, ti giuro. Non sto dicendo balle. No, si è spento davvero. Ah, davvero? Cioè, la videata è 21:43. Premiesc. Ok. C'è? Ok, arrivo. Dove siamo arrivati? Mercoledì 15. Mercoledì 15, ore 19, funeral party, spit top. Senape Vivai Urbano, sai che è un posto che tutte le volte lo trovo chiuso e tutte le volte voglio andarci, ma è sempre chiuso quando vado. Beh, io vorrà dire che ci andremo insieme una volta. Ok, uniamo perfetto, le forze. Io esatto, non perché sono molto interessanti. È un bel nome anche. Esatto, no, spazio molto underground però nordico, mi piace. Il 18 febbraio 2016 appariva tra gli scaffali delle librerie Solo per i tuoi occhi blu di Fabio Rodda, un libro di racconti che scava il fondale nero dei sentimenti, li eleva, li setaccia per poi buttarli nuovamente sul fondo come un sedimento. Bravo. Ogni racconto è scandito dalla musica di 5 canzoni tratte dagli album di gruppi delle scene indipendenti italiane: Massimo Volume, Ofelia Dorme, Le Ceneri e i Monomi. E internazionale, The Black Heart Procession, che non so chi siano. E poi un libro, spieghi a Fabio Roda, è come un pezzo di te che dopo un anno di strada assieme non vuoi più addosso, doveroso rimanere, però omaggiare i compagni di viaggio festeggiando la strada compiuta. Da qui l'idea di un party che celebra la nascita, il percorso, il funerale di questo rapporto intenso. Però non male come... Sì, nonostante che non vedo niente, però... Vabbè, ma lì... Intenso come il discorso di prima, diciamo che... Altro registro, però interessanti le menzioni di questa settimana. Certo, certo. Giovedì 16... Ah, torna Chip, bene bene. Giovedì 16 ore 20 alla Mia Nazione di e con Guerrilla Spam. Ad Elastico fa art. Chip presenta Guerrilla Spam e il loro libro, una raccolta di documenti inediti, schizzi, disegni, dipinti, scritti e saggi che mostrano nella sua interezza un progetto nato da una poesia di Pierpaolo Pasolini, concluso nelle strade di Torino con la fissione non autorizzata della trasposizione grafica di questi versi attraverso gli abituali poster di Guerrilla Spam. Ma quindi avranno tappezzato tutta Torino di un libro? Sembra molto bella come cosa. No, mi sembra comunque che tutte le cose di cui abbiamo parlato fino ad ora sono tutte interessantissime. Sai cosa dire. Direi? Siccome ci ha proprio aperto un sacco di finestre, sì. Mettiamo un branino che ci riprendiamo un attimo. Certo. Okay. Fatta, andiamo con questo. Looking for my place on assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hacked up in purple, smoke rings blow from across the disco. Banknotes burn like broken equipment, looking for shelter, readjust your positions. Crowd control, those written confessions, two dimensions, dumb your head down. Duck, don't look now, company missiles, power is raunchy, rent-a cops are watching. Make your dreams out of paper mache, cliche wasted, hate taste tested. Hell yes, not moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back the track, collapse into laugh tracks, noise response, applause and hand claps, floodgates open to the sound of the rainbow, breaking points on the verge of pointless, fools anointed to the followers' fanfare, look for the common, not superficial, code red, cola worker for many crises, perfunctory idols, rewriting the Bibles, with magic markers running out of the ink, lives in whiteout, turn the lights out, fax machine anthems, get your damn hands up. Hell yes, now I'm moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yes. Yeah, that's it. Yes. Your beat is nice. Yes. lo sai che lo devo sfumare il brano? Peccato. È carino. Certo. Ma perché effettivamente con queste super menzioni ci è volato via il tempo, poi ci hanno assorbito perché era interessante e quindi ci siamo soffermate e ci ha fatto volare. Poi c'è il famoso vuoto coccico che ci sta. Ovvio, ovvio. Senti, ma invece ritornando a noi, a maggio io avrei un matrimonio un po' importante. Lo so, si sposano tutti. Allora, cosa facciamo? No, ma guarda che per dei casi stranissimi sono finito in un matrimonio di quelli che farà la storia in Europa. Arrivano dalla Francia a fare, affittano la collina in Toscana per fare la festa. È vero. Mi potresti fare il vestito a rate? Ovvio, ma rate anche piccolissime, non è per quello. Però vorrei venire anche io al matrimonio, potrei fartelo gratis. Va bene, allora col fatto che questo ormai l'abbiamo, come io posso chiudere e, certo, ritornare, e ritornare a chiederti, ma allora in quel bellissimo atelier dove sono stata, dove ho visto la tua collezione, dove mi sono fatta anche le chiacchiere con musicisti, la mia amica mi ha rivoltato la vita emotiva come un calzetto, che ho fatto di quei sogni che sono rinata, certo, e tutta questa cosa qui che succede in Via Lame 26 suonando al campanello Sacenti, ma delle attività un pochino più col DJ set tipo? Adesso le inseriamo, però se facciamo DJ set ci mettiamo anche due o tre artisti, perché sennò ci sentiamo futili, però troppa intelligenza non va bene, quindi uniamo un po' il tutto. Ma diciamo cosa che, stai pensando di fare? Dalla prossima settimana partiranno una serie di eventi piccolini, con qualche artista, con qualche presentazione, qualche cosa grossa esterna, poi dopo vediamo, però comunque vorrei amplificare il mio invito a esprimersi e a pensare che comunque privato non vuol dire ghettizzarsi, vuol dire solo selezionare la qualità delle cose, che è una cosa che ci vuole. Io sto ambendo a questo, spero che sia stato capito, e poi comunque nella vita bisogna anche cambiare. Però sì, hai ragione, vorrei spendere due paroline in più per specificare meglio come usi il termine privato, perché in realtà il tuo è un privato pubblico. La questione, la questione è proprio il termine catalizzatore, secondo me. Io serve. Sono esattamente lo specchio di quello che sta succedendo adesso. Avendo 50 anni vengo dall'analogico, poi mi sono dovuta adeguare per forza digitale, perché se vuoi anche perché al contempo se rimaniamo che digitale, la tua situazione nell'atelier analogico sono le giraffe come erano in Via delle Moline, ma non c'entra, effettivamente analogico e digitale sì, si uniscono, sì, si certo, fondono, si fondono, perché alla fine si parla sempre di linguaggio, di certo, espressione, però effettivamente il posto, chiamiamolo allora il negozio delle giraffe, effettivamente faceva fatica a risuonare con la città che stava cambiando, nel senso che le persone che passavano per quella, certo, via delle Moline, abbiamo parlato prima delle varie mode che sono passate, non erano più persone che non erano più climi che potevano. Beh, io sono stata lì 21 anni, ho vissuto essere tutte le ere, e penso di essere stato un catalizzatore di arte a Bologna per tanto tempo. All'inizio volevo fare l'artista, poi mi sono trovata a essere un tramite per altri artisti, però ho vissuto nell'arte, l'ho sempre rispettata. Ma anche tu, scusami, i tuoi lavori sono, certo, sono dei prodotti, ma sono anche delle opere, certo, d'arte. Certo, ma io vengo dalle performance, ma io faccio molta confusione tra la divisione fra Valeria Sacenti, le giraffe o altro. Io sono fusa con il mio lavoro, delle volte sono schiava di me stessa, però non è quel punto. Il punto è che la tecnologia ti dà una facilità di espressione, una facilità di movimento ed è tempo reale. Il concetto di tempo reale è la tecnologia che l'ha inculcato nella testa delle persone, per quello che io posso sapere cosa fai tu dall'altra parte del mondo. 20 anni fa, se ti spedivo un'email ti arrivava dopo 3 o 4 giorni, capito? Quindi comunque il tempo reale annulla tante cose, però se sei intelligente e se sei una persona che venendo dall'analogico sa valorizzare il digitale, i giovani non sanno valorizzare il digitale perché ci nascono, lo danno per scontato, però dal momento che mi sono ritrovata dal passato al futuro, che ho vissuto anche il mezzo, sono nel futuro, la tecnologia la uso a mio piacimento, non mi faccio usare però dalla tecnologia, capito? Assolutamente no, infatti nel tuo caso è proprio uno strumento prezioso e reale, perché effettivamente la chat privata è anche l'occasione per entrare in connessione con queste nuove espressività, se vogliamo, oppure note o cioè nuove oppure anche già aduse, e quindi chi ti viene a cercare su Facebook, per dirne una, Valeria Saccenti le giraffe, ti scrive la chattina e ti dice guarda, io sarei interessato a fare questo, e se massimo in un'ora io rispondo sempre a tutti, anche se mi scrivi delle stronzate, basta che sei educato, mi dici Valeria, ho questa idea, come si può fare? Io rispondo sempre a tutti. E se c'è la se si attiva la catalizzazione, ecco che nasce un evento nell'atelier delle giraffe. Io voglio fare la stilista takeaway, cosa dichiara al check-in? Lineare e taglia cuci, cosa da dichiarare? Niente, mi drogo fuori, quindi questo è il punto. Io voglio fare le mie prove, abito via Skype, io con le mie clienti lavoro via Skype, esiste la tecnologia, usiamola. Poi vuoi venirla a vedere il venerdì, è lì, te lo compri e te lo porti a casa. Che problema c'è? Io voglio essere una. Io ho due computer di fianco alle macchine da cucire. Io cucio mentre chatto. L'ho vista, mentre l'ho sono vista. In Skype. Io sono in Skype con Londra, con Tokyo, con. Cioè, bisogna essere internazionali non solo nel cervello, anche fisicamente. Abbiamo i mezzi, usiamoli. E quindi. Artisti bolognesi o di Tokyo, di New York, di Berlino, ma anche di Casalecchio di Reno, sì, sì, cioè sì. Non è quello il problema. Anche capito? Veneti? Certo, tutti. Va bene, va bene. Allora Giffo, che se ci sta ascoltando, pensaci, contattate Valeria e vediamo se riusciamo poi a venirvi a vedere nell'evento che verrà realizzato. Casomai in via sono delle 9:26. Io che vengo nel vostro evento, cioè io non so nessuno, io voglio continuare il mio progetto però in versione... non dico più tecnologica perché è un termine anche stupido, in versione moderna. Abbiamo questo, usiamolo a passo col tempo, cioè il discorso che facevamo prima in autobus sull'arte, no? Punto. Mm-hmm. Un po' di vuoto coccico? Ah, più vuoto di così non lo so. Va bene, allora Valeria, io il tempo è volato, ma veramente certo. tra tutte le cose che mi hai raccontato e le menzioni abbiamo già finito, quindi io ti invito innanzitutto a farmi sapere, io in prima linea, qualsiasi cosa tu faccia, ovvio, farmi sapere, che poi lo menzioniamo anche qui, magari ce lo racconti al telefono se non torni di persona, e poi grazie per essere stata la super mega ospitessa della 171esima forse puntata di Coxo grazie Spaziale. Grazie a Radio Fujiko che mi ospita sempre, grazie a tutti. E noi ci salutiamo con la rubrica di Lolly, che forse non è più la stessa, perché l'ho mandata per 4 volte di seguito la stessa. No, ma in realtà c'è stata una cosa, perché il numero 40 e il numero 41 erano pressoché uguali, iniziavano lo stesso modo solo che, e avevano la stessa atmosfera sonora, solo che si sviluppavano diversamente. Quindi, insomma, qualcosa è stato uniti suonato. Uniti karmicamente. E adesso andiamo con la 42. A proposito, Riccardo Lolly o qualsiasi dei Lolly Brothers che ci stia ascoltando, ricordatevi che questa è l'ultima 2 minuti di Lolly che abbiamo, perciò producetene altre. Ciao! Ciao! 2 minuti di Lolly hanno una durata percepita variabile. Scusi, sa che ore sono? No, sono nudo. Ah sì, buongiorno, buongiorno, come va? Ho delle pendenze, ci si penserà. Entro dicembre, entro settimana, non entro, lascio passare la Befana, poi dopo entro nel mito, ma quello là è vestito, ha un tessuto ignifugo che gli brucia in testa, ma sì, è una nuova moda, ha un gettone della SIP. No, sono nudo, l'igiene è ben curata, l'immagine è curata. Mi scusi il disordine mentale, l'avessi saputo avrei pulito, ma quello là è vestito, si porta da solo al guinzaglio. Ma sì, se non mi sbaglio, è suo questo bagaglio? No, sono nudo, si vede quasi subito se sudo, per questo mi ricopro con il talco e provoco conati ai meno fortunati che devono cantare sopra un palco. Li indico col dito finché non han finito, ma quello là è vestito, ricoperto da foto di se stesso nudo, stampate su carta riciclata, una risma di pensieri si affolla nella mente. Mi scusi, sa che ore sono? Scusi, sa che ore sono? Scusi. Thank you. conoscete un cantante che si chiama Riccardo Lolli? Riccardo? I know a Riccardo, yeah. Italian? Oh, ew, gross! Go away, go away, go away, go away, go away, go away, go away. Stop it, go away. Lo sento spagnolo lindo, gracias. O sea, è bastante normale. Scusi, scusi. Riccardo? Who are you? Literally go away. You should see a doctor. Go away. No, all right. This was fun and all. This was so bad. Peace out, guys. Be good, man. Stay cool. It's time for say something in Italian. Fanculo. Fanculo. Già finito?